lex alto, il padre è Dios, y le exaltaré, mi padre è Dios, y yo le exalto, mi padre è Dios, y le exaltaré. Que me perseguían.